Vendo tutto di Matteo Caccia. Da quando ho iniziato il programma ho smesso di giocare a tennis, sciare, suonare la chitarra, stirare, girare in Vespa e andare a teatro. Perché le abitudini sono sempre legate alle cose che possediamo. Eppure io continuo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una coppia di pesi da 3 kg. Era il 1981, lei era Olivia Newton-John e il pezzo si chiamava Physical. Sono le 16:09, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, buongiorno a tutti. Vendo tutto è il programma. Ringrazio innanzitutto Alessandra Taddei, che sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia Vendo Tutto, ha consigliato di andare a rivedersi questo video. E vi consiglio, se avete un computer davanti in questo momento e state facendo finta di lavorare, di andare su YouTube e digitare proprio Physical Olivia Newton-John, perché ci sono delle immagini che ti riportano indietro di questi 30 anni, 29 anni direi, perché era il 1981, che non sono niente male. Lei ha su una tutina accettata verde e il protagonista insieme a lei è un signore abbastanza corpulento, che tra l'altro l'hanno virata questa cosa, perché la canzone, se la sentite, parla di physical in un altro senso e loro l'hanno virata sulla palestra. Ma vabbè, anche noi l'abbiamo virata sulla palestra e in particolar modo sul fitness, perché oggi si parla di tutti quegli attrezzi, questi due pesetti che vendo oggi compresi, tutti quegli attrezzi da palestra, da fitness che avete in casa e ogni volta che vedete vi fanno sentire in colpa perché li avevate comprati per tornare in forma. Sto parlando di quegli attrezzi dal vogatore alla cyclette, ai pesi anche, che avete lì in uno sgabuzzino o sotto il letto e che non avete più nemmeno il coraggio di vedere, di guardare. 80024 0024 per raccontarmi quali sono questi attrezzi da fitness che avete comprato in un giorno in cui magari volevate fare qualcosa giusto. Quella molla, cos'era? Una molla con i manici. Giustamente Laura Faggini indica, fa così con le braccia come una farfalla per indicare quell'oggetto che serviva, credo, per i pettorali, non lo so. 800240024 0024 per dirlo in diretta, oppure 349-238-6666 per leggerlo. Vi leggo qualcuno dei messaggi che sono arrivati, perché evidentemente tutti hanno, oltre che uno scheletro nell'armadio, anche un attrezzo di fitness. Monica dice: ho una cyclette, per anni e anni era ferma nel box finché mi sono decisa a portarla nella ricicleria comunale. Non so cosa sia il ciclo rimonante, però mi sembra già una cosa buona avercela. Maximilian, un vogatore più una cyclette. Loredana, un attrezzo per gli addominali. Silvia si è sbizzarrita. Due pesi da 5 kg, la corda in cuoio per saltare, le tutine da bodybuilding, le scarpe da ciclista, la bici da corsa. E poi il messaggio più sensato è quello di Michela, che dice: non ho mai capito qual è il segreto per riuscire a fare con costanza esercizi da palestra in casa. 80024 0024, torniamo ai miei pesetti per sentire la loro storia. Eccoci qua. I pesi. Coppia di pesi da 3 kg, colore giallo, materiale plastico con impugnatura antiscivolo. Dimensioni: lunghezza 30 cm, larghezza 12 cm, peso 3 kg ciascuno. Perfetti per mantenere in forma i bicipiti o bloccare le porte di casa. Valore commerciale 25 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Lavorare in una grande azienda mi ha insegnato molto della vita. Per cominciare, mi ha insegnato che se ti muovi velocemente e fai delle cose, anche se inutili, sarai ben visto dai colleghi e dai superiori. Se invece ti muoverai poco o non farai proprio nulla, sarai visto come un semplice scansafatiche. E questo vale un po' per tutti i campi della vita. Muoviti e sarai uno che fa cose, sei uno giusto. Se vai piano, sarai un lavativo. Sì, è vero, Gandhi ha fatto una rivoluzione stando sdraiato davanti a un treno. Ma questo non c'entra, ognuno deve vivere il proprio tempo, essere sempre sul pezzo, essere aggressivi, decisi. Ecco, se dicessi queste cose seriamente, non mi stupirei se in questo momento cambiaste canale. Invece sono più che convinto che per molti tutto ciò sia troppo vero. Che ci siano tanti da fuori che si sorprendono ogni tanto a pensare: ma perché diavolo sto correndo di qua e di là come una cavia da laboratorio? E poi in quel momento si ricordano dell'ultima volta in cui hanno preso una decisione importante, durante una passeggiata, ad esempio, o durante una seduta di lettura di un libro o nella vasca da bagno. muoversi, questa è la parola d'ordine di chi ha paura del giudizio degli altri e un po' anche proprio del proprio lato ozioso. Voglio dire, non ho niente contro chi va a fare corsi di fotografia, di danza latinoamericana, insomma, non ci andrei mai, però magari possono avere un senso. Ma chi va in palestra? Oh, e parliamo di parecchie persone, eh? Cioè, ma chi va in palestra a sollevare pesi, correre sui tapis roulant, fare addominali? Beh, devo dirlo, io quelli proprio non li capisco. Tra l'altro mi sono sempre chiesto se le vetrate delle palestre verso la strada sono fatte per permettere a chi è fuori di deridere chi è dentro o a chi è dentro di denigrare chi è rimasto fuori. Però c'è comunque qualcosa di odioso in quei vetri, come se ci fosse qualcosa che divide chi sta dentro da chi sta fuori. L'impressione che io ho è di compassione per chi corre ma sta fermo, perché per quanto veloce vada non riesce ad arrivare da nessuna parte. O peggio ancora per chi solleva qualcosa che dopo un attimo torna giù, inesorabilmente, e lo deve risollevare ancora e ancora e ancora. Cioè, se fosse un manovale che solleva mattoni lo capirei. A fine giornata avrebbe costruito qualcosa. Invece no, la palestra è simile a quello che ci hanno raccontato dell'inferno, dove sei costretto a ripetere in eterno gli stessi movimenti faticosi, senza alcun risultato. E in più devi pagare, annusare le ascelle dei vicini, guardare un canale TV che non hai scelto. Insomma, veramente l'inferno. E ve lo dice uno che di palestra ne ha fatte come? Non immaginate quante volte ho sollevato questi miei due pesetti gialli. Fammi entrare per favore nel tuo giro giusto. Ho bisogno di socializzare, di uscire dal mio guscio. Deve essere qualcosa legato al senso di colpa che ci è stato dato in dono dalla nascita. Tipo, che se fai qualcosa vuol dire che almeno ci stai provando a redimerti. Voglio dire, stai guardando intensamente lo schermo di un computer? Perfetto, stai lavorando. Anche se su quello schermo ci sono i calendari delle donne nude. Stai camminando lungo un corridoio con dei fogli in mano? Molto bene, vuol dire che stai producendo. Stai andando da un posto all'altro in auto tutto trafelato? Perfetto, hai fretta. Hai sicuramente qualcosa di importante da fare. Perché viviamo nel tempo del fare. O fai o non sei. E se anche hai finito di fare le cose che devi fare, devi continuare a fare. Allora giù corsi, vacanze, tappe forzate, lavatrici. E per i ritagli di tempo c'è sempre la palestra. Fitness, step, aerobica, fat fighting, spinning e stretching. Se non fai niente, non conti niente. E se fai qualcosa, forse la tua anima sarà salvata. Quando ho avuto per le mani la prima volta due pesetti è solo perché mi ero spaccato una spalla e la mia fisioterapista mi aveva detto: o fai esercizio o il braccio non lo muovi più. E io ho dovuto sollevare e distendere, sollevare e distendere per 2 mesi, sollevare e distendere. Mi ero lussato il braccio giocando a tennis. Sì, perché non è che io sia una specie di buddista che bisogna star lì impalati a fare niente e meditare. No, a me piace giocare, fare robe competitive. Il tennis, per esempio. E quella volta che sono scivolato sulla terra rossa del campo vicino a casa mia, ho messo giù male la spalla, ecco lì ho temuto di non poterlo fare mai più. Però grazie alla costanza e all'appoggio incondizionato della mia fisioterapista e di questi 2 pesetti gialli da 3 kg, eccomi qui. La mia fisioterapista fu una persona che mi segnò. Avevo 17 anni e dopo 40 giorni di gesso andai da lei con attaccato alla spalla un braccino tutto smunto senza muscoli. Lei mi guardò negli occhi e io capii che avrei fatto qualsiasi cosa mi avesse chiesto di fare. Mi disse di comprarmi 2 pesi e di fare certi esercizi. Lei comunque avrebbe dovuto aiutarmi a riattivare la circolazione, così i muscoli sarebbero cresciuti con più velocità, con più forza. Manco a dirlo, lei aveva 30 anni, credo, e di fronte ai miei 17 sembrava più bella e più inarrivabile che mai. Una donna splendida, con una specie di divisa che ti dà degli ordini mettendoti gentilmente le mani addosso, è il sogno di ogni 17enne. Ecco perché quei pesi me li portai dappertutto, a scuola, in giro con gli amici, ovunque trovavo una scusa per tirarli fuori e fare un po' di esercizio. E lo facevo, è inutile dirlo ovviamente, per lei, per Emilia, la mia fisioterapista. Una donna di cui mi innamorai perdutamente. Ero troppo ingenuo per dire qualcosa e forse lei non se ne accorse nemmeno, ma il modo in cui mi toccava la spalla mi faceva capire che con le donne si poteva fare di più del gioco della bottiglia. Era la prima volta che una donna mi toccava in quel modo, così concentrato, così serio. E lo capivo che era il suo lavoro e lo faceva per rimettermi a posto il braccio. Ma come facevo a non innamorarmi? avevo 17 anni. E poi, secondo me, mi ci innamorerei anche ora, se mi ricapitasse. Eppure, nonostante le mani di Emilia e gli esercizi che non farò più, questi pesi sono in vendita. Il loro valore sul mercato è di 15 euro, la base d'asta 99 centesimi. Per i vostri attrezzi da fitness che non usate, 80024-0024. Lights glow. Maybe when I get you on that Persian rug, that's the kind of movie. 16:20, questa è Radio 24, 349-238-6666. Federico da Padova mi scrive: ho comprato e abbandonato quella terribile pedana con fasci vibrante dell'America Star, comprata da televendita, credo che Homer Simpson l'avrebbe usata più volte di me. 80024-0024 invece per dire in diretta quali sono i vostri attrezzi inutilizzati. Andiamo subito a Cuneo da Davide, pronto? Ciao. Ciao Davide, come va? Bene. Dove hai quell'attrezzo? Dove ce l'hai? Ah, l'attrezzo 1 è in tavernetta adesso, okay. La cyclette, mentre invece la panca sono riuscito a venderla. Ah, cos'era, una panca di quelle per fare pesi? Sì, era una panca di quella fatta con i pesi, col bilanciere, con i dischi, comprato tutto il set, a forza di restare lì serviva solo per attaccare le camicie con la gruccia al bilanciere, per cui mia moglie mi ha detto basta, e così sono riuscito a farla fuori. L'ho venduta a un mio amico. A quanto l'hai venduta? Vabbè, qui sono stato grande, perché l'ho venduto al 10% in meno di quello che l'avevo acquistato. Ah, gli hai proprio rifilato la sola? Sì, la sola, che poi a sua volta ha rifilato un altro amico, perché anche lì serviva per appoggiarci le camicie e le borse del calcetto. Senti, vuoi dire qualcosa a questo tuo amico che ha una panca nel suo sgabuzzino, probabilmente? No, non gli dico niente. Perfetto, guarda. Davide, grazie mille, buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao, andiamo in provincia di Modena da Gaetano, pronto? Pronto, ciao. Ciao Gaetano, come va? Va abbastanza bene. Tu, mi pare di capire che tu ne hai diversi di oggetti, di attrezzi, sì, da palestra. Ho comprato in varie fasi della mia vita sportiva, diciamo così, la panca, il vogatore, i pesi, un altro affare che sviluppava i pettorali in maniera spropositata. Ma senti, però, ma Gaetano, tu che lavoro fai nella vita? Io sono magazziniere. Quindi fai di attività fisica già di tuo? Sì, ma sai cos'è, che a volte poi ci pensavi, arrivavano, ho 42 anni, e allora il calcio purtroppo non lo posso più fare, anche perché io lo farei, ma quelli della mia età non lo fanno più. Quindi mettermi in gioco con ragazzi di 20 anni. Ma poi li usi questi attrezzi, li hai usati? Assolutamente oppure? No, li ho usati una volta, forse due. Ok, Gaetano, grazie mille, buona giornata. Ci mancherebbe a te. Ciao, andiamo a Milano, da Gianni. Pronto Gianni? Sì, ciao Matteo. Ciao, come va? Tutto benissimo, come sempre. Bravo. Io volevo raccontare la mia storia. Una ventina d'anni fa ero appena messo insieme la mia famiglia. Aspetta un attimo, Gianni, partiamo da 20 anni fa, però ci arriviamo in fretta alla fine della storia, vero? Me lo prometti? Vai. Perché mia moglie, ai tempi, amante del fitness, mi fa dei metterti in forma. Sì. Io ero ancora con mia mamma, ho comprato una bellissima panca con bilancieri, manubri. Mia mamma mi ha detto: Gianni, in casa non la tieni. Dico: va bene, vado giù in cantina. Era un po' noioso, ho imparato anche lo stereo. È la seconda volta che andavo in cantina a fare palestra. Sono stato convocato dal mio assessore di condominio, che mi ha intimato di fare cose di questo tipo. Ah, perché era la palestra in cantina, era la cantina condominiale. Ok, però ci hai provato. Diciamo, quantomeno il senso di colpa non è per te, ma nei confronti dell'amministratore. Beh, avevo una buona giustificazione con l'attuale moglie. Perfetto, decisamente. Grazie mille, Gianni, buona giornata. Ciao. Grazie, ciao. 80024-0024. Andiamo da Daniele, Reggio Emilia, pronto? Buongiorno a tutti. Ciao Daniele, buongiorno. Io ho 38 anni, mi ricordo che avevo circa 16 anni, il mio compleanno, mio padre, dal quale mi aspettavo una macchina fotografica, arrivò a casa con un pacchetto lunghissimo e molto pesante, e quando l'ho spacchettato ho trovato dentro un bilanciere e un manubrio, un solo manubrio, con pesi di ghisa, che non ho mai utilizzato. Io ancora lì e niente. Io quindi quello era un regalo, però, Daniele. Era un regalo, sì, era un regalo. E tu avevi 16 anni, quindi ce l'hai, sì, da 20 anni nel gruppone, sti robi. Sì, più o meno da 20 anni. E perché non li vendi? Hai ragione, in effetti stavo pensando proprio. Daniele, cosa fai nella vita tu? Io faccio adesso consulente. Faccio no. Sì, più o meno. Fai il consulente? No, sono, ma sì, di cosa? Di in questo periodo. Vabbè, ma guarda, sono in tanti. Io a breve lo sarò pure io. Di consulente no, di cosa? Io mi occupo di disturbi dell'apprendimento. Ah, faccio okay. delle conferenze per disturbi grandi, dell'apprendimento. Grandi, grandi consulenti spaziano da destra a sinistra. Daniele, grazie mille, buona giornata. Ciao. Grazie a te, ciao. Andiamo a Matera da Vito. Pronto Vito? Ciao, pronto. Ciao, come stai? Bene, bene. Che tempo fa a Matera? Non è un granché. Coperto, ma non piove, non nevica. Ok, senti, tu anche tu c'hai degli strumenti o attrezzi sportivi o da fitness? Ho un'attrezzatura completa. Per 3 anni ho praticato box. Uh-huh. E andavo sempre in palestra e prendevo i guanti e il caschetto della palestra. Beh, quindi lo facevi però, Vito? Sì, l'ho fatto. Uh-huh. Però dopo ho comprato tutto nuovo, sì, e ho finito di andare in palestra. Ah. Banalmente mi è rimasto tutto bello nuovo, i guanti, i guantoni, i guantini, i paradenti, il caschetto, tutto. Ma tu non eri, cioè, cosa facevi? Prepugilistica o proprio ti pigliavi a pugni con... No, facevo pugilato, ma non a livello agonistico, pugilato a livello... E adesso dove ce l'hai questa roba? Ce l'ho in mansarda sopra, belli appesi, nuovi. Venderli ogni volta che salgo mi viene, ti viene la il groppone di cominciare, però poi ti viene ma allora riprovi. Quanti anni hai, Vito? 44 ormai. E cosa fai nella vita? C'ho un negozio, sono un commerciante. C'è un negozio di cosa? Abbigliamento. Dove? A Matera? Sì. Che si chiama? Si chiama Sing Sing. Oh, eccolo qua. Come vanno le vendite? Va male? Non è un gran periodo? Beh, questo non è un gran periodo per l'abbigliamento. E allora rimettiti a fare il pugile. Grazie mille, Vito. Sì, buona giornata. Ciao. Sono le 16:26 minuti. Questa era Vendo Tutto. Io ringrazio ancora chi ha scritto. Mi scrivono: prova il sollevamento fiaschi da 2,5 litri di Merlot. Ciao, Baenzo da Varese. Io, una fisioterapista, me la sono fatta sul posto di lavoro. Vabbè, ragazzi, ma non è che mi dovete dire proprio tutto, però, quando ve lo chiedo. Grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni. Per vedere i miei pesi andate sul sito radio24.it. Domani è il momento di uno scanner professionale per digitalizzare le foto. Se voi avete dei pesi in casa che vi pesano anche sulla coscienza, ragazzi, liberatevene, che alla fine viaggiare leggeri è sempre viaggiare leggero.